cerco un po' di verità, la verità dovunque sia.

non so cos'è, ma forse un attimo che ho perso e ritrovare quelle parole che ancora devo dire a te. Riscoprire la campagna sotto i passi miei e lampi verdi di ramarri sul sentiero e fermarsi a interrogare quel baccano da lì dentro me che ancora c'è. Se solamente ti ripenso e riscoprire quel malincuore che non so dire cos'è, ricostruire un'illusione partendo sempre. Perché, chissà perché, poi è come risentire lungo tutta la mia pelle il formicolio delle stelle e riscoprire come un dolore. Quando si va, dentro certe notti, in compagnia che ci stanno tutti del mondo. Nessuno parla, c'è sempre chi prende una chitarra e poi nascono canzoni per unire meglio ancora certi sogni e bisogni d'amore. Nascono così se c'è da dire qualche cosa. Nova in compagnia, e ancora si rinnova con te. Nascono canzoni per unire meglio ancora certi segni e disegni del cuore. Nascono così se c'è da fare qualche cosa in cui poter. Grosso no, se adesso vuoi sentirlo, no di petto, non sono pronta a dirlo, però è meglio se lo liberiamo insieme io e te. Almeno un po' di vento si muoverà fra i blocchi di cemento qua giù e spingerà, aprendo qualche finestra in più. E qualcuno forse poi si accorgerà che dal basso della notte salita. Un altro no, capace di arrivare ad ogni piano, ad ogni arsenale che c'è, a tutto ciò a cui si deve dire di no. Sarà la verità a non tacere mai, quando il rumore che c'è non si capisce cos'è, vedrai. Sarà la verità a non scappare mai, davanti a questa città, a certi calci che dà, vedrai. Qualche segno lascerà, più che altro piccherà in ogni orecchio. Grosso no, chiamato da più gente, anche da chi non ha mai detto niente, però un secco no, l'aveva in mezzo ai denti da un po'. Cemento qua giù e spingerà, aprendo qualche finestra in più. E qualcuno non potrà più dire che non c'era o che non ha capito mai. Un grosso no, se adesso vuoi sentirlo. No, ripeto, io sono pronta a dirlo, però è meglio se, se ci mettiamo insieme. Grosso no, in gola, ancora no, ancora una parola che va diretta a chi vorrebbe imbavagliarla così. Oh, grosso no. raccontano che lui si trasformò in albero e che fu per scelta sua che si fermò e stava lì a guardare la terra partorire fiori nuovi. Selvatico e pioggia lo bagnò, la mia felicità diceva dentro sé stesso, ecco, ecco, l'ho trovata ora che, ora che sto bene e che ho tutto il tempo per me, non ho più bisogno di nessuno, ecco la bellezza della vita che cos'è. Ma un giorno passarono di lì due occhi di fanciullo, due occhi che avevano rubato al cielo un po' della sua vernice. E sentì tremar la sua radice, quanto smarrimento d'improvviso dentro sé. Oh, quello che solo e allungò i suoi rami per toccarla. Capì che la felicità non è mai la metà di un infinito. Ora era insieme luna e sole, sasso e nuvola, era insieme riso e pianto, soltanto era un uomo che cominciava a vivere. Ora era il tempo che metteva la sua nuvola, immensa solitudine, era quella parte vera di ogni favola d'amore, racchiude in sé per poterci credere. La sentivo giù, si riprende. avvicinarsi così, qualche spunto, qualche idea, troppo poco per sbloccarsi da qui. Non c'è più fantasia, neanche nello stare insieme fra noi, non si esce quasi più. E alla tele passano sceneggiate che ho visto di già, conosco di già, bello, bello. E domani scrivono paginate che ho letto di già, oh, conosco di i colpi di un re. Non c'è più fantasia, ormai tutto sembra trascinarsi così. Ma la musica dov'è che sta andando? Fino a quando sopravviverà? E anche tu, Sant'Antore, che da sparati giù, non sai più cosa dire, le parole sono quasi finite, specialmente quelle finte. E non è cambiato niente, quel potere è sempre là e non se ne va, e non se ne un po'. questa luna, cercheremo l'avventura fino là. Oh yeah. Cercheremo se ce n'è ancora una, perché questa non sono sicuro che basterà. Io ho già fatto correre tutto il giro della notte, quante strade interrotte per deviare. Ho già fatto perdere ogni traccia, quel rumore che mi insegue. Per adesso qui non c'è. E tu chi sei? Forse ti conosco già. Che viaggio sei? Da che nebbie provieni? Da quali treni? Che stella sei? Punta un dito in mezzo al cielo. E dimmi se puoi ballare più forte tutta la notte. Non ci vedo niente di male, disimpegnarsi, lasciarsi andare. Stammi accanto, ho bisogno di te. Ho bisogno di tempo, stammi accanto. Stammi vicino, anche parlando, fino al mattino, fino a quando un po' d'amore, stando bene attenti però di non farlo passare dal cuore. Per adesso no. Che gioco sei? Forse l'ho imparato. E dimmi se puoi giocare. Impegnarsi, lasciarsi andare, stammi accanto, ho bisogno quando vado avanti così. L'ultimo che torni mai più indietro, fino a quando non verrà il bel tempo del buon senso per l'umanità. grande blu, due delfini. Silver e Missy vanno. Finalmente liberi.